E buonasera e benvenuti in questo appuntamento atipico di giovedì del primo pomeriggio. Lo facciamo per starci dentro con i tempi, per questa insomma nuova serie di trasmissioni di Might FM che si sta dedicando, a parte quelle classiche che iniziano a primavera e che sempre insomma abbiamo seguito, insomma le grandi rassegne come appunto il Primavera Sound, Sest Unplugged, Spring Attitude e altre realtà. Adesso invece siamo andati ai festival estivi, quindi dopo lo speciale ultimo che è andato in onda il 5 luglio scorso su appunto Sesto Unplugged, che oggi ricordiamo stasera ci sono gli Air in concerto, ci dedichiamo ad un'altra rassegna che si svolgerà per 3 giorni, il 25, il 26 e il 27 agosto in quel di Torino, e iniziamo con uno dei nomi emergenti italiani, una ragazza giovanissima, appena ventenne, che si sta facendo conoscere da un po' e che sta riscuotendo molto successo. Si chiama Bert e questo è Interlude for the Lifeless, tratto dal suo album d'esordio Born in the Woods dell'anno scorso. Parleremo a lungo del Today's Festival, di questo evento che è nato nel 2015, quindi siamo alla terza edizione, abbiamo detto Torino, abbiamo iniziato con Bert, che in realtà diciamo che è il primo nome, il primo act di apertura della programmazione principale, ovvero che inizia nel tardo pomeriggio alle 19 di venerdì 25 agosto presso lo spazio 211, che è solo uno degli spazi di questo festival, che come appunto succede nei festival urbani le sedi sono diverse. E questa insomma è quella principale, e il cui ingresso, l'ingresso a questa sede è l'unico che preveda un biglietto a pagamento, infatti tutti gli altri spazi e posti sono ad ingresso gratuito. Abbiamo sentito la giovanissima Alice Bisi, classe 96, Firenze, abbiamo detto ha esordito con quest'album Born in the Woods, è esordito alla grande a South by Southwest, il famoso festival di Austin. E si accompagna con altri due musicisti dal vivo, suoni che richiamano moltissimo Daughter, e per questo abbiamo scelto forse il pezzo che la richiama di meno, e anche appunto dei suoni molto anche XX, per carità, fatto tutto benissimo ma diciamo derivativo, ecco, però brava, brava ragazza. Io dico sempre che queste somiglianze non sono dei difetti, perché per esempio io non sono capace di farlo. Succede, è successo e succederà, bene e male. Stai andando bene Giovanni, dai che ce la puoi fare. Stai andando bene Giovanni, continua a fare male. Stai andando bene. Infatti sta andando bene Giovanni Truppi, il secondo nome che si esibirà alle 19.50 nella prima giornata di apertura del Today's Festival Napoli 1981. Giovanni studia pianoforte da giovanissima età, poi chitarra, poi anche canto, è anche insegnante di canto e poi ha pubblicato il primo album di debutto 2010, C'è un me dentro di me, e poi altri, un altro, e poi nel 2015 il suo album omonimo, da cui appunto stiamo ascoltando questa Stai andando bene Giovanni, edito da Woodworm. Poi successivamente quest'anno è uscito anche un album solo piano, che è una rilettura solo per pianoforte e voce dei suoi pezzi precedenti. Smetti di esercitarti. E non è vero che le abitudini di una famiglia ci mettono tre generazioni a cambiare. Però la tua natura è la tua natura, e nella tua natura c'è il tuo destino, e sono cose che devi accettare. Anche se questo non vuol dire che non devi imparare a finire quello che cominci, perché gli ultimi metri di corsa sono i più difficili, e la pipì si sente di più proprio quando stai arrivando nel bagno. Parole sante. Come si può sentire, cantautorato dinamico, intelligente, provocatorio, spesso appunto declamato, parlato, titoli Superman, un altro singolo, poi Lettera a Papa Francesco I, per esempio. Sei solo quando muori e sei solo dopo che muori, e per non sentirti solo dopo che muori ti conviene fin da subito cominciare a capire che cos'è la solitudine, e da queste parti ci dovrebbe essere la differenza tra paradiso e inferno, perché che te ne fai della perfezione senza la condivisione? E non pensare di poter dare più di quello che puoi dare, e non pensare di poter dare più di quello che puoi dare, e non pensare di poter dare più di quello che puoi dare. Spesso il paragone è con Rino Gaetano, i pezzi spesso sono surreali, molto provocatori, a volte sembra sul filo della misoginia, molto eclettico, bizzarro, sicuramente un talento molto sicuro di sé e artisticamente ambizioso. E siamo passati al grande nome della serata, la nostra amatissima da sempre, da quando la vedemmo la prima volta nel 91 sul palco di Reading, o 92, ma era comunque la prima grande esibizione di Polly Jean Harvey. Questo pezzo che stiamo ascoltando di PJ è la sua ultima pubblicazione, un doppio singolo, ovvero un singolo con un doppio lato A, significare insomma uguale dignità ed importanza dei due pezzi. Dopo il bellissimo The Hope Six Demolition Project del 2016 e la pubblicazione di Guilty, un singolo che non era contenuto nell'album, il 28 aprile scorso, questo doppio singolo, una collaborazione con il super produttore Flood, Mark Ellis, cioè da Movement, The New Order fino a False War Paint, e appunto l'album di PJ, e il vecchissimo amico e collaboratore John Parrish. They swept across the land. They did not leave a thing. E visto che sono due pezzi alla pari, li abbiamo messi insieme, anche perché non sono molto lunghi, sono però molto belli. Mentre però Dog Called Money potrebbe essere appunto un outtake dell'album, anche come suoni, come panorama, insomma ci si immagina un po' di questo ghetto, questa periferia dove c'è questo vecchio che blatera, questi ragazzini che giocano con un cane chiamato Denaro. Quest'altro pezzo, questa ballata, I'll Be Waiting, dove invece la doppia voce non è quella di John Parrish, come appunto nel pezzo precedente, ma è quella tra gli altri del nostro, tra virgolette, Enrico Gabrielli, sembra appunto la storia del di un superstite del genocidio statunitense contro gli indiani d'America, un racconto di come non sia stato lasciato un albero, un animale, un uomo vivo, solo sabbia. Prima amavo tutti, adesso odio tutti e aspetterò di vendicarmi. Cosa che mi era sfuggita, che dal 2013 Polly Jean è stata insignita di una importante onorificenza britannica, ovvero è diventato MBE, ovvero membro dell'Ordine dell'Impero Britannico. Forse è strano che l'abbia accettata, e poi mi chiedo, ma ci si può permettere di rifiutare una cosa del genere? Noi abbiamo avuto l'occasione di vederla l'anno scorso al Primavera Sound Festival, maestosa, inquietante, sembrava uscita dal Signore degli Anelli, queste piume nere in testa e i suoi meravigliosi musicisti in scena con lei a cantare ed accompagnarla, proprio è stato molto simile ad un rito. E dopo Polly Jean, un altro nome molto atteso, per esempio da me, è quel folle pazzerello adorabile cazzone di Mac DeMarco. Trovo questo pezzo meraviglioso, pezzo di apertura del suo ultimo disco, My Old Man. Sembra proprio di vedere sempre di più del mio vecchio in me, cioè si cresce e con propria sorpresa ci si accorge di assomigliare sempre più al proprio padre, a cui non si sarebbe probabilmente mai pensato di poter assomigliare nella vita, visto sicuramente per i contrasti, insomma l'opposizione che c'è sempre quando si cresce con i genitori. Dicevamo, adorabile cazzone, noi l'abbiamo visto al Primavera sempre a Porto un paio d'anni fa, ha finito col culo di fuori calandosi proprio la salopette. A Barcellona, l'ultimo Barcellona Primavera Sound, si è dato fuoco alle ascelle. Questo tono di voce tipicamente lennoniano, un po' albarniano, tenero, è affiancato da musicisti ugualmente pazzi come il chitarrista Andy White, debutto nel 2012 con un album che si chiamava Two, quindi già chiamare due è il primo album, insomma, dice molto. Poi diciamo la consacrazione con Salad Days nel 2014, in mezzo un mini LP Another One e questo ultimo 2017 This Old Dog. E infatti questo è This Old Dog, la title track, il secondo pezzo dell'album, che ci piace ugualmente molto molto e ci ricorda i nostri giorni sempre all'ascolto di Vodafone FM. L'abbiamo già ascoltato qualche volta qui a Might FM. Mac DeMarco, nato a Duncan nella British Columbia, poi cresciuto a Edmonton come Purity Rings, venne battezzato 1990 Vernor Winfield McBriar Smith IV. Poi invece la madre, quando era piccolino, insomma, si è separata dal padre e per fargli dispetto ha eliminato il nome Vernor Smith, che era il suo bisnonno, che era un ministro delle poste e delle comunicazioni dello Stato dell'Alberta, bla bla bla. Insomma, per non lasciare la legacy del padre nel nome del figlio, la madre lo ribattezza in modo molto più semplice, no? Lo chiama McBriar Samuel Lennon Mac DeMarco. Often a heart tends to change its mind. New day decides on a new design. Lui stesso definisce il suo stile Jizz Jazz, non so se è Jizz nel senso in cui lo usa la sua connazionale canadese Peaches, quindi nel senso di seme maschile. Video goliardici tipo la Beavis e Butthead, la sua musica può anche essere definita slack rock, ovvero questo stile polleggiato, si direbbe a Bologna, rilassato, senso dell'umorismo e comunque un gran talento per la scrittura e la melodia, insomma come i Pavement o come Kurt Weill, infatti l'origine della parola è pigro, ozioso, scansa fatiche. E di questo nuovo album di Soul Dog ricordiamo anche On The Level, che ci piace molto, molto retro synth anni 80. E quindi così finisce in bellezza la prima serata, diciamo la parte principale, insomma centrale, nella venue principale del primo giorno del Today's Festival, che si svolgerà non solo nello stesso quartiere, il cosiddetto quartiere barriera, ma nella stessa area all'interno dello stesso quartiere, veramente a pochi passi un posto dall'altro, quindi anche molto molto comodo logisticamente. E infatti a parte parleremo anche del programma che precede questa prima serata che inizia alle 19 con Bert il primo giorno, ne parleremo perché comunque abbiamo tempo, ma adesso stiamo sentendo invece quello che inizierà alla mezzanotte nell'ex fabbrica Incet, ingresso gratuito, lo ripetiamo, si paga solo per lo spazio 211 e il nome che abbiamo voluto selezionare dalla programmazione di quella sera è l'immenso per noi Max Cooper. We'll be right back. Max Cooper e il suo ultimo lavoro fatto con un suo collaboratore da tempo, Tom Hodge. L'album si chiama Emergence, questo pezzo si chiama Distant Light. Abbiamo ascoltato invece Symmetry un'altra volta nella trasmissione dedicata a Spring Attitude, dove abbiamo potuto vedere lui e i suoi meravigliosi visual. Infatti è un cosiddetto AV show, audio video bellissimo, e abbiamo detto tutto di Max Cooper, soprattutto il fatto che è uno scienziato, ovvero un biologo computazionale che applica modelli informatici sul possibile sviluppo ed evoluzione di cellule e molecole. Mi è venuto il mal di testa già quando ho iniziato a leggerne, e infatti appunto c'è molto di organico nella sua musica, molto di cosmico, molto di esistenziale. Io nomino sempre questo pezzo di oltre 10 minuti, Viaggio nel grembo analogico, che veramente ascoltato in cuffia magari di notte ad un volume bello alto ti fa veramente fare un viaggio, come un viaggio questo Distant Light. Days Festival 25, 26, 27 agosto, quartiere Barriera di Torino, terza edizione per una città che è veramente all'avanguardia per quanto riguarda festival, musica, intrattenimento, l'assumere, l'adottare le nuove tecnologie in un contesto urbano che unisca appunto arte, musica, arti visive, performance. Lo vediamo con Club to Club, ormai leader come festival della scena elettronica sperimentale di clubbing, ma appunto anche qui al Todays non può mai mancare anche la sezione clubbing con cui si finisce degnamente la serata. Una città che aveva avuto per tanto tempo la sua manifestazione estiva per di più gratuita, il Traffic, finisce questa esperienza, ma subito, senza perdere neanche un colpo, un anno della serie ci riorganizziamo e ci pensiamo, insomma l'amministrazione pubblica ha trovato le risorse logistiche, soprattutto umane, a livello di organizzazione, di visione, di direzione artistica, nella persona di Gianluca Gozzi, che già appunto aveva lavorato tanto allo spazio 211 per poi passare al Bla Bla, dove abbiamo visto Lower Dance qualche anno fa, e ha ripreso insomma in mano le fila per organizzare questo festival che ha riconoscimenti nazionali ed internazionali, che lo vede appunto a livello di altri festival, manifestazioni europee dello stesso tipo, ma continueremo a parlarne. E intanto ci fermiamo un attimo per riascoltare per la terza volta Might FM dopo Primavera Sound, ovvero lo spazio dedicato a Primavera Pro, i talenti italiani che si sono esibiti allo showcase a Barcellona dedicato agli addetti ai lavori, e poi sempre Spring Attitude, anche lui presente, Marco Zitelli, ovvero Wrong on New, sta andando alla grande, partecipa a tutti i festival di questa estate e a buon diritto. Un po' Bon Iver, ci piace il suo EP The Mountain Man, già ne abbiamo fatto sentire appunto due pezzi, questo ne è un altro, penso, mi pare il primo, si chiama Killer, in attesa di un album di debutto vero e proprio prodotto dal remida del pop italiano Michele Canova, Wrong on You. con Wrong on You ci siamo proiettati idealmente alle 19 del secondo giorno del festival, il 26 agosto, sempre allo spazio 211, diciamo insomma sede principale con i nomi internazionali più famosi per quanto riguarda la programmazione di tipo alternative rock, indie. E dopo Wrong on You c'è un altro talento italiano in espansione, ovvero Giorgio Poi. Di strano, tratto da Fa Niente, l'album di quest'anno di Giorgio Poi, il suo debutto, nato a Novara, cresciuto a Lucca, trasferitosi a Roma, 20 anni va a Londra, dove si diploma in chitarra jazz. Fonda il gruppo Vado in Messico, che poi cambia nome in Kairobi, ma nel 2013 tra Londra e Berlino comincia a scrivere dei pezzi, poi in italiano, perché quell'Italia quasi snobbata, perché insomma noi di solito insomma cresciamo pensando che tutto quello che è straniero è meglio, a distanza si trasforma quest'Italia in oggetto di amore e nostalgia, e nascono appunto canzoni sulla scia della migliore tradizione del cantautorato nostrano, anche filtrato anche dalla rilettura, anche per esempio dei suoni di Lucio Dalla, fatta per esempio da Io sono un cane, ma anche poi Conte, Ciampi, Vasco Rossi. Esitazione su una faccia che ha già deciso, ma resta un altro po'. Fuori come piove, ti si fermano a metà. Tutte le parole che rimangono tra i denti, chilometri di filo interverbale per poterle pronunciare e prevenire l'imbarazzo di un'incomprensione. Insomma, si passa dal disinteresse, un po' la noia rispetto all'Italia, invece l'idealizzazione di tutto ciò che è italiano, la sua musica, il cibo, il cinema e la musica ovviamente, ma non perché poi si consideri migliore del resto, ma semplicemente perché è qualcosa che immediatamente, istintivamente capisci di più. Noi abbiamo scelto questa Niente di strano, sebbene penso il pezzo singolo video più conosciuto sia Tubature. Quindi un indie un po' psichedelico, quello che adesso risulta alternativo semplicemente perché ho riscoperto una rilettura di chi magari negli anni 70, tardi anni 70, primi anni 80 questi suoni non li sentiva, invece noi sì, perché noi c'eravamo. Come sicuramente ci saremo quella sera, magari anche le altre, ma sicuramente questa del 26 ci saremo per andare a sentire Perfume Genius. Su di lui abbiamo detto tutto il primo giugno, su di lui, la sua carriera, i suoi album, la sua musica, il suo ultimo album No Shape, le sue vicende umane, personali, artistiche. Quindi rimandiamo lo speciale di Mighty FM su Perfume Genius, Mike Hedrias, Seattle. Questo è il pezzo di chiusura dell'album dedicato, cantato al suo compagno, nonché principale collaboratore musicale, Alan. E la metto perché è la mia preferita, perché mi fa piangere, perché forse dal vivo non la faranno. Alan. Yeah. soon as sad. Sono qui, che strano, canta incredulo Mike, Perfume Genius, che precederà, insomma siamo il 26 agosto, c'è Wrong On You, poi Giorgio, poi proprio Perfume Genius, precederà uno dei nomi più famosi del Britpop, che dopo l'esperienza con i Verve ha iniziato una carriera solista già dal 98, mi ricordo i primi pezzi, i primi due dischi molto molto belli, si tratta di Richard Ashcroft. Everybody needs somebody to hurt. Cioè, tutti hanno bisogno di qualcuno a cui far male, non da amare, come cantavano invece i Blues Brothers. Tratto da These People del 2016, a cui sono stati tratti 6 singoli, e questo è uno dei pochi pezzi che non è appunto un singolo. Ci sono tante ballate piene di archi, come ai vecchi tempi dei Verve, They Don't Own Me, molto bella ma un po' lunga, diciamo che appunto non ha il dono della sintesi, è un po' prolisso. Riccardino, anche Black Lines è molto molto bella. Io ho scelto un pezzo che mantiene il suo stile aggiungendovi qualcosa di contemporaneo, qualche suono un po' più contemporaneo, non come per esempio il pezzo d'apertura del disco, che invece mi sembra un grande passo falso, in quanto c'è la sua canzone diciamo classica messa sopra ad una base house abbastanza cheap che non c'entra niente. Invece questa molto bella, Everybody Needs Somebody to Hurt, Richard Ashcroft. And the walls are closing in. Looking at that phone, waiting, just waiting for someone to ring. You know you could be a good friend, you could treat them well. But no one seems to be caught. These People, che nella carriera di Richard Ashcroft è il quinto album solista dopo Along With Everybody, debutto nel 2000, poi Human Conditions 2002, Keys to the World 2006, United Nations of Sound 2010 e questo These People. E si esibirà alle 21.30 di sabato 26 agosto allo spazio 211 dopo Perfume Genius, Giorgio Poi e Wrong On You. Ma appunto, come abbiamo sentito prima con Max Cooper, c'è anche una programmazione notturna dedicata al clubbing dell'ex fabbrica Inchet ad ingresso gratuito. e il primo nome ad esibirsi a partire dalla mezzanotte è Kimmo Rapatti, in arte Monojunk, Finlandia. Attivo fin dai primi anni 90 con la sua etichetta Dumb Records, Minimalistic Raw Techno, ovvero cruda minimal techno analogica, oscura, fredda, intessuta in una forma ipnotica e sperimentale, fredda come la pietra, e questa è stata una traduzione da una definizione che ho trovato su Discogs. Questo pezzo che ci stiamo ascoltando è Melody Boy's Melody, tratto dal uno dei suoi ultimi lavori, due EP pubblicati nel 2017. Questa è tratta dall'EP che si chiama Disillusions, Monojunk. Sebbene Monojunk faccia dei pezzi molto pesi, noi abbiamo scelto questo, che lo è meno degli altri, perché poi i nomi che lo seguiranno in console in quella notte saranno ancora molto molto più pesanti. Noi li citiamo, li ascoltiamo, ci riteniamo in sottofondo e li usiamo appunto come base per parlare in modo un po' più completo della programmazione degli spazi del Today's Festival. Abbiamo detto, il Today's Festival, la prima edizione è quella del 2015. L'anno scorso anche grossi nomi come John Carpenter, XX, o no? John Carpenter sicuro. Confondo, XX erano state al Traffic, MAT3, Soulwalks, I Cani, Local Natives, Crystal Fighters, Calcutta, Teoteardo, Motte, Io Sono Un Cane, Niagara, ovviamente sono di casa, e quindi un'attenzione molto a grossi nomi della scena, insomma, indie, alternativa, alternative rock, ma anche molto ai talenti locali, sia torinesi, piemontesi che italiani in generale. E avevano appunto iniziato alla grande con Interpol, TV on the Radio, Verdena, Murkoff, I Portico, Lori D, Yakamoto Kotsuga, anche lui, veneto, Godu Gong, quindi nomi che sono venuti fuori qualche anno fa e ancora vanno avanti, vanno molto bene, come Clap Clap per esempio, nel panorama musicale italiano più o meno alternativo o a cavallo, insomma, con la scena anche del clubbing. Dicevo, i nomi che seguiranno Monojunk mettono musica abbastanza pesante. Questi appunto sono figli della Torino industriale, o perlomeno orfani, anzi, della Torino industriale. Sono i Boston 168. Ovvero Sergio Pace e Vincenzo Ferramosca, Acid Techno, quindi già, insomma, immagino che siano abbastanza giovani, ma già hanno iniziato a suonare con la passione di una musica che era già nel passato degli anni d'oro, degli anni 90, dei rave. Infatti la loro biografia sulla pagina Facebook fa appunto questi paragoni tra le città industriali sia nel Michigan, ovviamente Detroit, che nel Regno Unito, che in Italia, quindi a Torino, rimaste un po' orfane in questa realtà industriale dove tutti gli impianti, le sedi smantellate poi diventano sedi più o meno legali di rave, di party, insomma della vita notturna. Hanno fondato una loro etichetta, ma vengono pubblicati anche da molte etichette altre europee. Grandi successi nella scena, pezzi come Terror Acid e Acid Morning. Il pezzo che stiamo ascoltando è tratto dal loro ultimo EP, 90s Space, quindi appunto lo spazio degli anni 90, spazio nel senso musicale, anche spazio nel senso fisico, immagino, si chiama Orbit. Questi enormi spazi abbandonati che sono diventati appunto sede dei rave. Loro missione, quindi quasi scientifica, appunto trasportare il loro pubblico in questi viaggi tecnici, techno, e soprattutto un lavoro rigidamente analogico. Ma per tornare alla programmazione e agli altri luoghi del festival, ripartiamo dal primo giorno, ripartiamo dal primo luogo che verrà aperto, ingresso gratuito a chi vorrà andarci, ovvero la Galleria d'Arte Gagliardi e Domke, per tutti quegli appuntamenti denominati To Lab. A partire dalle 14 questo spazio ospiterà performance, installazioni, incontri, presentazioni, proiezioni. Vi rimando ovviamente per ogni informazione su todaysfestival.com. Gli appuntamenti del primo giorno dalle 14 alle 18 sono Suonare la luce, Electronic Wind Chimes, Still Life / Art Reports, Tecno Profezie, questo è molto interessante, di come oggetti che adesso tecnologici che sono stati creati, inventati e che fanno parte della nostra vita quotidiana siano apparsi per la prima volta come oggetti fantascientifici in opere e film a carattere appunto fantascientifico. Poi Music What's Next, un panel discussion, poi Spaghetti Disco Rock and Roll Hall of Fame, e poi, come si diceva, si passa allo spazio 211 con la programmazione centrale. Abbiamo sentito Bert, Giovanni Truppi, PJ Harvey, Mac DeMarco. Poi un altro spazio, sempre ingresso gratuito, si tratta del Parco Peccei, che alle 23 vedrà l'audiovisual show in anteprima italiana di Bytone, e poi abbiamo detto a mezzanotte Max Cooper nella ex fabbrica Inchet, sempre ingresso gratuito, inizio concerto a mezzanotte, fine concerto alle 4, e dopo Max Cooper ci sarà The Bridge DJ set, e Made Up Sound 2562 DJ set e Shed Head High DJ set. Ma noi siamo ancora nello stesso spazio, idealmente siamo nella notte del sabato, e questo è il famoso Terence Fixmer. Famoso perché ha iniziato dalla fine degli anni 90 a suonare e ha iniziato con la International DJ Gigolo di DJL. Noi ce lo ricordiamo nei primi anni 2000 al Festival di Benicassim, francese di base ad Anversa, ha creato questo mix di electro, industrial, IBM e techno per creare un genere a sé che unisca tutto, la techno body music, e continua la sua sperimentazione passando poi nel tempo ad una techno più scura, più ipnotica, più energica. E l'ultimo EP pubblicato per la Oscuton è Beneath the Skin, stiamo appunto ascoltando la title track nonché primo pezzo di apertura di Terence Fixman. Ed anche lo spazio della ex fabbrica Incet, dove si svolge la notte del clubbing, è un'eredità della tradizione della storia industriale torinese. Fondata nell'ultimo decennio del XIX secolo dalla società anonima Tedeschi, l'industria nazionale cavi elettrici Torino, Incet, si specializza nella fabbricazione di cavi elettrici e si impose successivamente come una delle principali attività ausiliarie, diremmo noi l'indotto, della nascente industria dell'automobile, e poi è stata assorbita dopo la seconda guerra mondiale dalla Pirelli, e poi nel 68 smette l'attività e questo sito rimane in condizione di abbandono fino a quando nel 2009 arriva l'intervento di riqualificazione e recupero urbano all'interno del programma Urban della città di Torino, che tanti spazi ha recuperato e sta continuando a recuperare, anche le officine, adesso non mi ricordo, OGR, dove si esibiranno i Kraftwerk durante la prossima edizione di Club to Club. E passiamo all'apertura della programmazione di sabato 26 agosto, sempre nello spazio della Galleria d'Arte Gagliardi e Domke per To Lab, dove sarà a disposizione del pubblico lo stesso numero ed elenco di installazioni e di performance, proiezioni varie, a cui però si aggiunge Ourselves e Io sono la musica che ascolto e Elusive Balance, diversi incontri anche con Emanuele Colasanti, Colas, che parlerà insomma della sua esperienza come 42 Records. E adesso invece passiamo all'ultimo act, il double act, ovvero un nome ma due anime, ovvero sono i Karen, progetto che vede la collaborazione tra Blawan e Pariah, entrambi musicisti anglosassoni che hanno iniziato a suonare nel 2010 rispettivamente, e subito un anno dopo hanno iniziato a collaborare insieme facendo ogni tanto degli EP dal titolo senza titolo, ovvero Untitled, l'ultimo nel 2014. La produzione più recente che hanno fatto è un DJ mix per Resident Advisor, e ci ascoltiamo invece un altro pezzo, veramente il più tranquillo, tratto da l'Untitled del 2012, che si chiama Life's Bleach. Prima della riapertura della Galleria d'Arte, per chi insomma ha forza nelle gambe, soprattutto è di Torino e quindi vive lì e ha la sua biciclettina, dalle 11 alle 14, previa iscrizione, si partirà per fare una bella sgambata fino a Pinerolo, no, quello lo faceva Fantozzi, sotto il nome di Two Ways Bike Tour in città, partendo appunto dalla barriera di Milano, il quartiere, nello specifico partenza da Spazio 211, periferia moderna e quartiere dove si svolge il festival, per giungere al cuore aulico di Torino. Ci si sposterà verso Porta Palazzo, la periferia multietnica in pieno centro, e si concluderà, prima di tornare alla partenza, del quartiere Borgodora, invece la periferia storica di Torino. E questo si svolgerà sabato mattina dalle 11 alle 14. Poi l'apertura della galleria, poi il passaggio a Spazio 211, dove abbiamo sentito Brongo New, Giorgio Poi, Perfume Genius, Richard Ashcroft, e finiamo il giro con questa notte pesissima all'ex fabbrica Inchet. Abbiamo sentito Mono Junk, Boston 168, Terence Fixmer forse, e Karen. Ma per chi invece dopo Richard Ashcroft volesse una cosa un po' meno impegnativa, sempre al Parco Peccei, ingresso gratuito dalle 23, Rolly Porter e Marcel Weber, unica data italiana. E un'altra cosa molto molto interessante, collaterale appunto al festival, è il Tour Days, ma ne parleremo più tardi perché adesso dobbiamo lasciare lo spazio ai Pop X Popper. Questa canzone è bella e si chiama Azzurra, tratta dall'ultimo album del 2016, Lesbianity. Sto facendo a metà tra due nostri baci, c'è una terza lingua che esiste. Ci abbracciamo, ci diamo, insieme ci guardiamo e vediamo cose mai viste. Cielo si apre in due, Dio vede noi, lo salutiamo e poi fa grandinare. Il sole batte forte e finalmente noi possiamo cominciare. Oh no, è azzurra il cielo, c'ha 19 anni oggi. Oh no, è azzurra il cielo, c'ha 19 anni oggi. Oh no, è azzurra il cielo, c'ha 19 anni oggi. E dicevo che la sera del sabato in location vario, ovvero il piccolo cinema, il Print Club Torino, le officine Causa e Off the Corner, che sono in altri quartieri della città, ci sono delle rispettive programmazioni e diversi spazi. Però in questi spazi, a partire da mezzanotte, ovvero per la programmazione notturna dello spazio Incet, si potrà sentire in remoto con delle cuffie wireless anche se non sei lì, e mi sembra una cosa carina. E invece appunto siamo passati ai Pop X Popper, a detta di alcuni. Perché domenica 27 agosto, a parte sempre le performance, installazioni, cose da vedere e da ascoltare alla Galleria d'Arte Gagliarde Donche per il Tulab, sempre a pochi passi, sempre nella stessa piccola area parziale del quartiere Barriera di Milano, ovvero la Piscina Sempione Open Air, ingresso gratuito, Hip Hop X, evento speciale, alle 16 terranno questo concerto, pool party, che voglio dire, possiamo solo immaginare cosa potranno fare. Io l'ho visti dal vivo un paio di volte, una volta all'XM, una volta al Cassero. Il genio malato di Davide Panizza, trentino, trentenne ormai anche lui, anche di più. Fondamentalmente c'è lui e poi ci sono altri pazzi che lo circondano e lo supportano. Si è fatto conoscere, sono fatti conoscere attraverso mille video postati su YouTube, quindi un evento, anche che io non li conoscevo, l'ho saputo dopo, un evento un'attività che li ha fatti diventare oggetto di culto. Mi ricordo il super hit Io c'entro con i missili, e poi nel 2015 la pubblicazione del Best of Pop X e lo strumentale dello stesso anno I Belong to You, ovvero canti albanesi di Trento e Bolzano, seguito nel 2016 a questo Lesbianity. Qui appunto si mischia, sì, 8-bit, PC Music, che hanno sempre fatto, però qualcosa di un po' più elaborato e sofisticato e retro, cioè molto molto sax, tipo papetti e anche molti elementi in musica folk, più o meno di est. E siamo tornati. Dopo il party in piscina ci si fa una doccia e si va ancora allo spazio 211 per il gran finale, che inizia alle 18.30. Io mi ricordo lo sguardo che avevi, uno sguardo felice, mentre parlavi ti tremava le mani perché non dicevi quel che volevi e cioè che mi ami. Io mi ricordo lo sguardo che avevi mentre cantavi la sera perché non ti siedi per te non dicevi. Poi la solita guerra di baci e non avrei più paura, ti darò un po' di coraggio e non avrai più paura. Pensiero riesco a tornare alla sabbia che scotta e davanti c'è il mare. Guardati come sei bella, ora ti voglio baciare. Dicevo, si tratta di Andrea Lazlo De Simone, appunto, nome di casa, torinese. Posso spostarti i capelli. Cantautorato psichedelico, ritorna appunto a questa sonorità degli anni 70, prog, psych, un po' Battisti, un po' Le Orme. Nasce musicalmente come batterista dei Nadar Solo con suo fratello e altri, e poi nel 2012 l'esordio solista con Ecce Homo, e adesso nel 2017 la pubblicazione di un altro album, Uomo Donna. Stiamo ascoltando uno dei singoli e video, La guerra dei baci, Andrea Lazlo De Simone. E tutto viene ingoiato da questo Wall of Sound, un altro pezzo, un altro video viene a salvarmi della durata di 10 minuti, siamo molto incuriosite di vederlo, chissà se ci saremo anche l'ultimo giorno del festival, speriamo di sì. E appunto, come dicevo, lui apre la programmazione, lo spazio 211, seguito da un'altra realtà emergente e poi nuovissima, ovvero i Casertani Gomma. Provincia di Caserta, band giovanissima, si è formata all'inizio del 2016, Matteo, Paolo, Giovanni, Ilaria, emo, punk, queste chitarre serrate intricate e anche queste melodie molto da math rock. Dopo un paio di singoli, l'album nel 2017, Tosca, parola russa. Pezzi molto molto molto brevi, molto intensi, ce n'è uno che supera i 3 minuti. ed essendo molto brevi di pezzi ne abbiamo scelti due. Questa era Aprile e arriverà Elefanti. La mia immagine si riflette nei tuoi occhi. Forse è il preludio al riavvicinamento franco-americano. Ci nascondiamo come gli elefanti quando sono felici. Dicevamo, l'album si chiama Tosca, questa parola che significa sensazione di grande angoscia spirituale, spesso senza ragione, nostalgia di qualcosa che non si sa bene cosa sia, ma non come la saudade, perché c'è questa fortissima invece accezione negativa di vaga inquietudine, irrequietezza, agonia mentale, addirittura tedioso male dell'anima. Emergente in un periodo in cui in Italia, insomma, la scena musicale alternativa sfonda anche abbastanza velocemente nel mainstream, pensiamo appunto a fenomeni come Calcutta ed altri, ma siamo arrivati ai Timber Timber e a questo pezzo che ha un'anda molto fame, ovvero Bowie Lennon. Si chiama Grifting, tratto dal loro ultimo album, ovviamente, di quest'anno, che si chiama Sincerely Future Pollution, Timber Timber. Perché si distanzia abbastanza dagli altri pezzi del disco, molto più classicamente folk, blues, freak folk, sick folk o southern goth, anche se loro sono canadesi dell'Ontario. Sono nati nel 2005 e il nome Timber Timber viene da uno chalet, una baita, insomma una baracca di sughero nei boschi di Bobkaigeon, non saprei mai come dirlo, in Ontario. Molti pezzi a me ricordano i Tinder Sticks, almeno i pezzi passati. E insomma, queste tre serate centrale, programmazione centrale principale del Today's, mi sembra molto molto rispettivamente caratterizzata quest'ultima sul sull'alt rock, folk rock, indie di varia matrice, ma sempre geograficamente collocabile nel Nord America, perché ci sono i Timber Timber, poi ci sono gli Shins e poi ci sono i Band of Horses. Timber Timber, ovvero Taylor Kirk, Simon Trottier, Mathieu Charbonneau e Mike Wheaton, 6 album, i primi 2 autoprodotti e l'ultimo appunto quest'anno, Sincerely Future Pollution. Tra l'altro Kirk e Trottier hanno anche prodotto il primo disco delle Tassiomancy, che abbiamo potuto conoscere ed ascoltare parlando di Austria. E il quarto e quinto album dei Timber Timber sono stati finalisti ai Polaris Music Prize, ovvero l'equivalente canadese di Grammy o Mercury. Quindi andrà Laszlo De Simone, Gomma, Timber Timber alle 20 e poi alle 21:15 The Shins, cioè gli Stinchi. You're flipping through the check stand racks, it appears there ain't no time to waste, you're getting on in years. You can keep your can up if it just never eat again. It's a means. Ovvero il brainchild di James Mercer, anche lui insomma alla fine fulcro, come capita in tante band, punto fermo di una, di un gruppo in cui appunto alla fine c'è rimasto solo lui. Anche lui si è reso conto insomma con un po' di costernazione che alla fine gli Shins era solo lui, gruppo nato nel 96 a Albuquerque nel New Mexico, poi trasferitisi a Portland, Oregon. Portland. Sì, stiamo ascoltando 3 pezzi. Dopo il debutto nel 2001 con Ho, Inverted World, noi l'abbiamo conosciuti ed amati nel 2003 con Chutes to Narrow, quando l'indie era indie. Poi molto tempo tra i dischi successivi, Winds in the Night Away 2007, Port of Morrow 2012 e quest'anno questo Heartworms, fatto praticamente tutto da solo. E ci ascoltiamo appunto 3 pezzi. Il primo che abbiamo sentito era Name for You, poi c'è questa Dead Alive che è stato il primo pezzo che è stato diffuso e poi seguirà So Now What. Anche loro a me piacerebbe vederli molto, anche perché si tratta di una unica data italiana, un'esclusiva italiana, mentre se dovessi perdere i Timber Timber recupererò al Vodafone Paredes de Fora. E questo pezzo da The Live, soprattutto nella coda finale, ha una grossa somiglianza secondo me con Golden Brown degli Stranglers. Ignorance of imagination. mentre questa So Know What ha un po' questa apertura che ricorda More Than a Feeling, non so di chi è. E insomma, a noi gli Stinky ci hanno sempre fatto simpatia. James Mercer è un bravissimo singer-songwriter e alla fine, insomma, questo Heartworms è un gradito ritorno, come si suol dire. E dopo gli Shins, un altro nome della scena alt rock. It's a complete farce. Everything you do is a farce. Ovvero si tratta di Band of Horses, anche questa stessa storia, cambiamenti frenetici di line up, abbandoni dolorosi, ma alla fine rimane sempre lui, cantante chitarrista principale Ben Bridwell. Alt rock, indie, folk rock, Band of Horses, formatisi a Seattle nel 2004, debutto nel 2006 con Everything All The Time, che conteneva la sempiterna famosissima primo singolo e poi più grande hit della loro storia, ovvero The Funeral, che è raffigurato in tantissime pubblicità, serie, film, eccetera. Poi Cease to Begin 2007 e altri album, anche qui sempre insomma un po' più di pausa col passare del tempo tra un album e l'altro, ma nel 2016 esce questo ultimo album, Why Are You Okay, da cui stiamo ascoltando Casual Party. Tra l'altro è molto molto bello il pezzo di apertura dell'album, che dura 6 minuti e mezzo, inizia con una ballata abbastanza lenta, poi c'è questo cambiamento ed una coda invece molto diversa e molto molto più dinamica, molto bella. Per motivi di tempo non l'abbiamo messa, invece abbiamo scelto questa Casual Party, abbastanza up tempo rispetto ad altri pezzi del disco, di un disco che è stato prodotto da Jason Little dei Granddaddy, poverini, loro che erano pronti per un grandissimo ritorno anche sui palchi europei dopo l'uscita di Last Place, ma poi la morte di Kevin Garcia, che dall'età di 15 anni fino all'età della sua morte, appunto a 41 anni, ne aveva fatto parte, ha fatto cancellare tutti i live, compreso quello che noi aspettavamo molto al Primavera Sound. Tra l'altro ho scoperto che nel periodo tra gli ultimi due album, in realtà Ben Bridwell ha fatto un altro disco con Sam Beam degli Iron and Wine, che insomma hanno anche favorito la loro ascesa, perché sono stati conosciuti Band of Horses perché aprivano ai concerti degli Iron and Wine. Hanno fatto un album di cover, Singing to My Mouth, dove c'è da Talking Heads a John Cale, da Sade a Il Ferro del Mar, agli Spiritualized. Insomma, dicevamo, gran finale dell'ultimo giorno del Today's Festival, 24, 25, 26 agosto, venerdì, sabato e domenica, negli spazi del quartiere Barriera di Milano, Barriera di Milano a Torino, cioè ovvero la parte della città che va verso Milano. Diversi spazi, quasi tutti gratuiti, tranne quello, lo spazio appunto 211, dove l'ultima serata sarà chiusa trionfalmente dai Band of Horses. Chi vi ha raccontato tutto la programmazione Today's Festival ancora una volta è stata Claudia Mighty Mau. Ci vediamo per una prossima puntata dedicata ad un altro festival di fine estate. Ci sentiamo i prossimi giorni. Buon ascolto su Radio Kairos da Claudia Mighty Mau. Everything is about you, man. Put my remote in. Hey! We have... Hey, what's up? Touchdown.